Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È la terza parte di Eclettica in una settimana, la numero 22 di questa ennesima stagione, stagione numero 13, in cui ho cominciato a dare anche altri numeri, non solo quelli che vi ho appena dato. Numeri che sono poi date di due eventi, uno vicino nel tempo e uno un po' più lontano. Quello vicino nel tempo è nella settimana in cui sono in onda, o via etere o via satellite, quindi se state ascoltando via podcasting, attenzione, controllate bene sul calendario prima di muovervi. Infatti sabato 3 di marzo sarò presente alle selezioni della Toscana della Fondazione Arezzo Wave Italia. Il tutto si terrà a Livorno, al The Cage. In giuria ci sarò io, ci saranno altri. Molti non li conosco, nel senso che non so ancora chi possano essere. So bene che però in giuria ci saranno anche gli Zoo, che saranno il gruppo ospite della serata. E poi mi è stato detto che mi verrà messo in mano un microfono e dovrò presentare anche i gruppi mano a mano che saliranno sul palcoscenico. Quindi potrebbe essere un'interessante occasione di incontro con alcuni di voi. La seconda data che vi do senza per il momento dare ulteriori informazioni è quella del 30 di marzo ad Arezzo. Vi posso anche dire il luogo generico, in modo che capiate che non si può trattare di un DJ set tradizionale, per cui non si può usare il termine DJ set. Sarà all'interno di una libreria, pur essendo di sera, in orario in cui le librerie tipicamente sono chiuse, o meglio la maggior parte delle librerie sono chiuse. Comunque, a proposito di libri, eccoci qua a cominciare questa terza parte di Eclettica. Doveva aver fatto un volo di almeno 10 metri perché la macchina stava ancora bruciando molto più indietro, ferma, accanto al marciapiede, tra un furgoncino dal parabrezza incrinato e una Volvo col bagagliaio spalancato dall'esplosione. Doveva essere uscito sfondando il vetro davanti col sedile e tutto, come espulso da un jet, e doveva aver fatto una capriola per aria perché era atterrato di schiena, quasi in mezzo all'incrocio. Doveva essere morto perché la bomba, sparandolo fuori dall'auto, gli aveva strappato tutte e due le gambe all'altezza del ginocchio, bruciandogli il resto del corpo fino all'osso. Invece era ancora vivo e stringeva la bandoliera bianca del brigadiere Carrone, la stringeva forte, come se volesse strangolarlo. Questo era l'incipit di Un giorno dopo l'altro, di Carlo Lucarelli. Mine.

E così siamo arrivati anche alla terza parte di Eclettica, come già vi ho detto, con questo mixer nuovo, come ho detto all'inizio della prima parte, che ogni tanto ha bisogno di qualche attenzione in più rispetto a quella che normalmente dovrei dedicargli. In effetti i tasti sono nelle posizioni diverse, quindi a volte capita di porre le mani nella posizione a cui si era abituati, porre le mani in quella posizione e poi di non ritrovarsi. Quello che è successo qualche secondo fa e per cui vi ho intrattenuto con queste piacevoli chiacchiere. Ci siamo appena ascoltati May I Refuse, l'album Weather Reports, gruppo fiorentino che ha il tempo, era passato anche dalle parti di Demolition e che ora è arrivato con questa nuova prova in cui rende omaggio nella canzone che ci siamo ascoltati alla città di Athens. Invece abbiamo aperto con uno dei brani a cui dedicherò attenzione anche durante il giorno con le pillole di Eclettica. O forse l'ho già fatto, questo sinceramente non me lo ricordo, visto che le pillole ovviamente vanno in onda tutte registrate. La band di Bloomington, Indiana, di nome Murder by Death, che però ha un titolo dell'album, e cercherò di scoprire anche il motivo, fino ad ora non ci sono riuscito, al titolo tutto in italiano, In bocca al lupo, disco che esce per Cooking Vinyl e dal quale noi ci siamo ascoltati il brano intitolato Brother. A parte le novità di questa settimana, come i due brani che hanno caratterizzato questo inizio di Eclettica, vediamo di ascoltarci invece un brano che da qualche settimana compare all'interno delle mie playlist. Un disco Asthmatic Kitty Records, etichetta statunitense, per cui incide l'altrettanto statunitense Rafter, per il quale al momento io ho selezionato, scelta mia di singolo, questo brano intitolato Hope, e non è detto che prima o poi ne passerà invece un altro, Hope, da parte di Rafter. Hold your hopes up high. I can't. My spirit's broken. I mean, how hard is it to push a motherfucking broom around the room? You got fired from pushing the fucking broom. I got fired because management was restructuring. Yeah, restructuring them out of retards they were working for. Shut up. You get canned more than tuna, bitch. All the way from Pettenweem to the rock and roll dream. All the way from East Nuke Faith to the R&B life. Did you dream of locks and highlands? È un progetto sicuramente molto ambizioso, i cui risultati artistici in certi casi sono anche accettabili. Si chiama Ballads of the Book e Joint Effort. Joint Effort è uno sforzo comune, un lavoro comune da parte di musicisti e di scrittori scozzesi. Il tutto parte da un progetto degli Idlewild, poi preso sotto braccio dalla Chemical Underground con il supporto della televisione, il canale ufficiale della televisione scozzese, il quale voleva realizzare appunto un documentario che mettesse assieme i migliori nomi della scena musicale e della scena letteraria. Quindi un disco che sicuramente calza a pennello all'interno di Eclettica. Ci sono diversi nomi scozzesi, almeno per quanto mi riguarda sono più noti quelli dei musicisti, perché ci sono per esempio James Yorston, Marco Middleton, gli Idlewild citati, King Creosote, gli Aerogram e per esempio anche Aidan Moffat, di cui avrete riconosciuto la voce nel fare questa The Sixth Stone, con il testo scritto appunto da uno dei tanti scrittori scozzesi che partecipano a questo progetto, il cui nome è Ian Rankin. Vi ricordo che potete vincere un po' di biglietti per i concerti scrivendo a giulio@radiorockfm.com, per esempio già settimana scorsa, e l'ho ripetuti con dettaglio delle date in mailing list, nella lista nera, i concerti di Chris and Carla, ex Walkabouts, che stanno per passare fra qualche settimana in Italia in tre luoghi diversi del nord e del centro Italia. Però vi voglio dare con precisione qua in onda una data molto più vicina, quella del 7 marzo, i Nouvelle Vague, che verranno a Milano al Transylvania Live. Quindi se volete andarci gratuitamente scrivete a giulio@radiorockfm.com. Terza parte che è arrivata alla conclusione con il nuovo per la Groenland dei Pet, per cui l'etichetta sta cercando in tutti i modi di accostarli ai Sister Sisters. Sì, qualcosa ci può essere, il loro desiderio desiderio è quello del successo commerciale, però direi che i Pet con questo disco hanno raggiunto sicuramente una maturità maggiore rispetto al precedente, che infatti era passato, se non ricordo male, una sola volta all'interno delle playlist di Eclettica. Loro sono perlomeno già al secondo passaggio con Cloud 9, estratta da Rewind the Sofa Lady. Eclettica, fine della terza parte.